presentiamo Libera in pillole, il podcast creato dal coordinamento di Libera Imperia per approfondire alcuni temi legati all'antimafia. E ricordate sempre che con un poco di zucchero la pillola va giù. Libera è un'associazione nata nel 1995 con l'obiettivo di mantenere un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull'uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. È presente su tutto il territorio italiano in 20 coordinamenti regionali, 82 coordinamenti provinciali e 278 presidi locali. Sono 80 le organizzazioni internazionali aderenti al network di Libera Internazionale in 35 paesi d'Europa, Africa e America Latina. Oltre 4.000 sono i giovani che ogni estate partecipano ai campi di impegno e formazione sui beni confiscati. Circa un migliaio quelli che animano progetti di tutela ambientale in collaborazione con i Carabinieri Forestale. Oltre 5.000 le scuole e i dipartimenti universitari impegnati insieme a Libera nella costruzione e realizzazione di percorsi di formazione e di educazione alla responsabilità e legalità democratica, con il coinvolgimento di centinaia di insegnanti e migliaia di studenti. Noi rientriamo in quest'ultima categoria. Siamo un gruppo di giovani studenti impegnati in Libera ormai da qualche anno. Volete conoscerci? Ci presentiamo! Io sono Rita, ho 24 anni e mi sto per laureare in Lingue e Letterature Moderne all'Università di Genova. Sono referente del presidio Rita Atria di Imperia e dei progetti di formazione nelle scuole. Il mio impegno in Libera è iniziato nel 2012 e da allora non si è mai fermato. La mia pillola conterrà consigli di lettura per ragazzi e per le loro famiglie. Ciao a tutti, io sono Ettore, ho 20 anni e studio medicina all'Università di Pavia. Sono stato referente del presidio Giuseppe Montalbano del liceo Viesso di Imperia negli anni passati e ad oggi sono rimasto come volontario un po' a Imperia e un po' a Pavia. Oggi però sono qui perché vorrei raccontarvi un po' di cose su come la mafia stia cercando di approfittare di questo momento di emergenza, avanzando i suoi tentacoli soprattutto sui più deboli. Ciao, io sono Tommy, ho 19 anni e sono uno studente di ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Insieme a Sara, che si sta per presentare, ho fondato il presidio Livatino del Liceo Cassini di Sanremo. Sono un grande appassionato di cinema e di tutte le cose tecnologiche e infatti mi occupo del montaggio di questo podcast. Ciao, mi chiamo Irene, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno del liceo classico. Attualmente sono referente del presidio Montalbano del liceo Viesso di Imperia e insieme parleremo di musica contro le mafie e in generale di come il mondo della musica possa rappresentare un impegno attivo contro il mondo della criminalità organizzata. Ciao, sono Sara, ho 19 anni e studio giurisprudenza a Trento. Sono stata referente del presidio Rosario Livatino del liceo Cassini di Sanremo e il mio impegno in Libera, ad ora, continua principalmente all'interno del presidio Celestino Fava dell'Università di Trento. Insieme entreremo nel mondo dei beni confiscati alle mafie. Ciao, sono Irene, ho 23 anni, sto lavorando come cameriere in una pizzeria Imperia. Sono stata referente del tesseramento del coordinamento di Libera Imperia per un anno. Sono referente delle politiche giovanili di Libera Imperia. Da 2 anni a questa parte sto seguendo il progetto ANEMO come volontaria di Libera. Mi sono appassionata di Libera nel febbraio 2017. Nella mia pillola vi racconterò che cos'è il progetto ANEMO. Ciao, io mi chiamo Matteo, ho 18 anni, sono nato a Genova. Attualmente vivo già da sola ad Imperia e faccio il cameriere. Sono volontario nel gruppo di ANEMO di Imperia dal 2018. Ho iniziato Libera grazie alla MAP, messa alla prova, e protagonista del film appunto intitolato MAPS. Nella mia pillola andremo a conoscere il progetto ANEMO. Oltre a noi, ci saranno altre puntate con degli ospiti speciali, da non perdere. Questo podcast è per voi. Non volevamo lasciarvi soli in questo periodo in cui è meglio restare a casa. Perciò, armatevi di tanto zucchero. Libera in pillole sta per cominciare!